io so buono solamente quando vi fa comodo a voi. Quando non vi fa comodo, Facone è un coglione, no? Eh? Domani vedrai come posso trovarlo io. E se non ti toglie il barattino, trombo di personaggio, come faceva Danilo Snoopy. Oh, Dani, mira l'amico tuo, mi di vicino a casa tua. Questo qui è quello che ti fa squillare il telefono. Anzi, ieri ti ho chiamato io per avvisarti che è questo qui quello che ti rompe le balle. Vabbè, sarò anch'io che ti rompo a te, però... Però mia madre ha detto un giro, amico, con tutto che ti ha detto... Bene, amico tuo di vicino a casa tua, cosa fa? Sì, auto, non te nemmeno ti caga, vabbè, perché auto, capito? Ti parla giusto perché sei un finocchio, un paraculo, capito, stronzo. Ma che ti tema per quella bagassa mamma tua? Attacca il telefono, quello che parla a voce bassa, attacca il telefono, a vedere com'è schiata quella bagassone tua madre. Prova a attaccare il telefono. Brutto coglione! Brutto coglione! Coglione! Casino cioè tu e quella grande bagasse mamma tua! Quella grande bagasse mamma tua! Casino cioè tu e quella grande bagasse mamma tua! Perché adesso c'è il cotolaro con il crepe! Quella bagasse mamma tua! Ma se ti hanno dato il barattino per rompere il coglione, brutto figlio di bagassa! Brutto figlio di bagassa! Crepi tu e quella grande bagassa mamma tua adesso, cioè, quella grande bagassa mamma tua! Brutto coglione! Tu devi crepare tu quella grande bagassa mamma tua! Hai capito? Stanotte non ne dormi! Caprio, c'è un testimone, Baratti. Sono tutti... C'è un video, c'è un video, c'è un video, c'è un video. Telefonate, capito? Nel video con la canzone tuo padre. Adesso sta arrivando un lavorante giù a casa tua. Io parlo con Graziano, che adesso sta arrivando la volante a casa tua, non scopa, te l'ho detto e te l'ho fatto. Vai e crepa tu con la bagassone tua madre, lo vedi che tua madre sta dando il baracchino per rompere i coglioni, froscio. Tanto non mi faccio vedere più da te, capito? Perché per vedere un froscio simile, capito? Un drogato.